Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. A volte anche noi ci sorprendiamo che in una sola trasmissione si possa parlare di elefanti e topolini, di gelati, di polpastrelli a prugne, a sanguisughe e giocattoli erotici. Ma come sorprendersi se abbiamo messo insieme noi tutta questa roba? Non ci credete? Allora benvenuti a Mebius e ascoltate i titoli di questa puntata. Il migliore amico di Dumbo, l'elefantino di Walt Disney, era un topolino. Ma gli elefanti non dovrebbero avere paura dei topi? Lo chiede Claudio, un nostro ascoltatore. Quanta ricerca c'è in un cono di gelato? Si studia costantemente come mantenere stabile un'emulsione così delicata. La scienza del piacere. Tecnologia e innovazione al servizio della felicità sessuale. È uno dei temi del Festival della Scienza di Roma. Sanguisughe. Nei film d'avventura sono un pericolo per gli esploratori di paludi e foreste, ma in chirurgia possono fare miracoli. Ciao Chiara, ciao Alberto. Ciao Federico, da cosa partiamo? Dai sex toys? No, dai topolini, dagli elefanti e dai topolini. Ah, dalla domanda dell'ascoltatore. Io non mi ricordiamo ricordo. I contatti, cosa dite? Ah sì, dai, perché farci allora, via mail, mandateci le vostre domande che stiamo raccogliendo belle e numerose. mebius@radio24.it. Oppure via Facebook, diventate i nostri amici, siamo Moebius Scienza. E poi c'è Twitter, moebius_online. Diamo la parola a Claudio. È vero che un topolino può spaventare un elefante? Claudio ha visto Dumbo. Ha visto Dumbo, dove il topolino era il miglior amico in realtà dell'elefante. Sì, però se non ricordo male c'era un'elefantessa invece che si spaventava tremendo. Ma c'è questa leggenda? Ma è vero? Questa leggenda non si sa. Ma noi andiamo a Firenze. Lo chiediamo a Marco Vannini, ordinario di zoologia dell'Università di Firenze. Buonasera Vannini. Buonasera a voi. È una bufala? Ahimè, sì, è una bufala. Non credo che esista nessuna osservazione diretta o sperimentale o comunque attendibile di topolini che abbiano spaventato gli elefanti. Che poi fare esperimento in un laboratorio con tanti elefanti e topolini non è mica una roba facile. Quando si sperimentare nel caso di fare scienza dovrebbe dire replicare, quindi dovremmo osservare più elefanti o più topolini, eccetera. No, dubito, probabilmente tutto nasce da qualche, chi lo sa, da qualche un'unica osservazione, qualcuno ha visto una volta un elefante irrisato per caso presenza di un topolino, quindi la cosa sembrava così straordinaria, ma può darsi si è inventato del tutto, non ho idea, ma comunque si dice... So per certo che gli elefanti non si spaventano a vedere i topolini, li schiacciano al massimo. Li schiacciano, madonna. Ma si dice addirittura sia Plinio il Vecchio che aleggia nella nostra trasmissione ultimamente. Ma sempre Plinio, ha parlato di tutto. Sì, certo. Le mitologie riguardanti gli animali si tramandano per secoli con una pervicacia assolutamente incredibile. Non so se avete mai sentito dire delle vipere che si arrabbiano sugli alberi per liberarsi dei piccoli, per evitare di essere morse e quindi uccisa i loro stessi piccoli. Io so che qui in Toscana qualunque contadino è pronto a giurarvi di aver visto o che conosce qualcuno che ha visto queste vipere arrampicarsi e far piovere serpentelli. Non è così, la vipera non può arrampicarsi, non ha la struttura fisica per arrampicarsi su nulla. Non ha le braccia. Sempre a questo proposito, non lo so se è un altro falso mito, forse sì o forse no, ma anche il detto, che lo struzzo mette la testa sotto la sabbia, anche lì non è che sia una questione di fobia, cioè si dice che non sia mai stato osservato uno struzzo con la testa sotto la sabbia. Sicuramente no. Probabilmente è una questione di mimetismo, lui semplicemente abbassa il collo per mimetizzarsi, per essere più per nascosto. Meno visibile, oppure perché stanno mangiando, non lo so. Effettivamente lo struzzo è molto, io l'ho visto lavorando in Africa, lo struzzo è molto visibile quando corrono il collo eretto, soprattutto le struzze che hanno il piumaggio meno cospicuo, se lo chinano si nascondono molto più facilmente, ma sicuramente non hanno né la voglia, nemmeno i mezzi per scavare nella sabbia e nascondere. Tra l'altro, appunto, spesso succede così, viene utilizzato come sinonimo di animale pauroso, sì, certo, e invece è il contrario, è un animale molto forte. E coraggioso. Beh certo, si difende contrattaccando delle unghie. Vabbè, insomma, quindi struzzi, vipere, elefanti, topolini sono bufale. Sì, bufale. Era una battuta. mondo animale trascina con sé sempre delle storie magiche che è difficile a volte separare dalle osservazioni, tanto più gli animali appunto sono esotici poi. Lei è un esperto di fobie animali e torneremo a parlarne con lei. Intanto grazie Vannini. Prego, ringrazio a voi. Grazie, buon lavoro. Buonasera. Buonasera. Valeria e i polpastrelli. Sì, questa è una mail che ci è arrivata, la leggiamo così com'è. Ci chiede come mai quando si sta troppo nell'acqua ci vengono appunto i polpastrelli, come dici tu, a prugna, a un po' grinzosi, ecco, rugosi, esatto, rugosi. E qui abbiamo l'esperto. Abbiamo l'esperto che è un ordinario di dermatologia all'Università Federico II, Giuseppe Monfrecola. Buonasera. Buonasera a lei. È già stato nostro ospite. Allora, cosa ci dice a proposito di questo? È uscita una ricerca che sembrerebbe dare una risposta. Sì. Interessante l'articolo a cui le fa riferimento, che porta delle conclusioni che ci fanno capire come la natura provveda alla protezione di varie specie in maniera molto singolare. Cioè, in questo caso cosa hanno fatto? Hanno visto che il corrugamento del palmo della mano e della pianta dei piedi dopo immersione, diciamo, servirebbe con una tecnica sperimentale. Hanno evidenziato come un mammifero a 2 a 4 zampe potrebbe avere un vantaggio dovuto a una maggiore aderenza per esempio su superfici lisce o bagnate, e ciò ovviamente ci fa capire come si possono prevenire cadute, ma anche insomma in caso di attacco o di fuga. Cioè con le pieghe insomma potrebbe camminare, muoversi meglio per una maggiore aderenza. Afferrare meglio naturalmente. Però ecco, loro dicono che questo è dovuto al fatto che ci si chiedeva perché c'è il corrugamento. Lo attribuiscono a un riflesso neuronale. Loro dicono di tipo vasocostrittivo. Come dermatologo devo dire ho una certa perplessità. Hanno usato acqua calda a 40 gradi, un riflesso vasocostrittivo diciamo a 40 gradi è un po' difficile che possa avvenire in senso termico, ovviamente. Naturalmente il riflesso ci sarà senz'altro, probabilmente stimolato da altro, verosimilmente indotto da altri stimoli. Devo però fare una precisazione che tutti quanti ben conosciamo: mani e piedi dell'uomo e di altri animali sono provvisti di uno strato corneo particolarmente spesso, da 10 a 20 volte quello di altre zone. Questo significa che immerso in acqua tende a imbibirsi d'acqua, quindi non escluderei totalmente anche quest'altro meccanismo per il corrugamento. Ecco, io se posso dirne la mia, avrei diciamo gradito uno studio in cui si potesse anche, non so, assaggiare acqua salata oltre che acqua dolce o acqua a diverse temperature. Questo così come metodologia di studio. Devo lo dire faccia che lei! Comunque, ecco, sì, potremmo certamente. Comunque è interessante perché poi questo cosa ci porta alla conclusione che la biologia animale e tutta la sua diciamo evoluzione, quello che c'è, rappresentano veramente uno dei campi più affascinanti da studiare, questo sia in campo umano che in campo animale. Lo studio, non l'abbiamo detto, è dell'Istituto di Neuroscienze dell'Università di Newcastle, quindi possiamo dire che la conclusione magari come ipotesi può essere anche apprezzabile, quindi certo, servirebbe avere maggiore aderenza a questo corrugamento, però insomma ancora un po' da indagare. Diciamo una conclusione del genere è valida per quanto riguarda diciamo il perché, a cosa serve. Quello che bisognerebbe meglio indagare è se ciò accade veramente in ogni condizione, non soltanto in quella condizione sperimentale ovviamente, quindi limitata per questo. Ho un po' la sensazione che questa domanda sia con una risposta molto aperta. Una sensazione così a pelle. A pelle, ecco. Noi non riusciamo a trattenerlo. Lei ci deve scusare, ma quando facciamo le domande lui deve trovare queste cose qua. E Alberto è fatto così. Chiedo scusa anch'io. Grazie, buon lavoro. A lei, buon lavoro, buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Il gelato nel mondo è italiano, eh? Mi assolutamente butto, sì. Ho sbagliato? No, no, no, no, assolutamente sì, anzi qui dominiamo. Esportiamolo come marchio di tendenza assoluta. Cioè, certo, so anche che ci sono dei numeri spaventosi, no? Numeri, allora, adesso arriveranno. Sì, in realtà si fa di tutto affinché appunto il marchio italiano sia un'eccellenza nel mondo e per mantenere questa emulsione che è molto instabile. L'emulsione, non è più il gelato. Non è più il gelato, ma è un'emulsione, perché qui parliamo di scienza del gelato, cioè non è che possiamo parlare di frivolezze. L'emulsione al limone. Ecco, noi qui oggi chiacchiereremo della chimica che sta dietro al gelato, che appunto, come dicevamo, è un'emulsione, una schiuma molto instabile, e c'è tantissima ricerca per rendere stabile e mantenere questo equilibrio stranissimo che c'è tra gli elementi che compongono il gelato. Ottenendo qualità, perché questo è il problema. Ecco, certo, perché il gelato cremoso piace a tutti, cioè il gelato pieno di ghiacciolini dentro non piace a nessuno. Non piace a nessuno. Vabbè, noi ne parliamo in realtà perché in questi giorni a Rimini si tiene la fiera della gelateria e della pasticceria italiana, si chiama SIGEP ed è un'eccellenza in questo settore, e con noi oggi per raccontarci di questo, di quanta ricerca c'è dietro questi ingredienti, c'è il presidente del gruppo degli imprenditori che fanno gli ingredienti per il gelato. È qui con noi Fabrizio Osti, buonasera. Buonasera. Buonasera Osti. Allora, abbiamo detto bene, è una schiuma, un'emulsione molto instabile, giusto? Sì. Lei che è un chimico ci potrà spiegare, insomma, da cosa è composta questa schiuma? Il gelato è un alimento molto complesso perché fondamentalmente è un prodotto che viene creato da una combinazione di ingredienti solidi, liquidi, per esempio gli zuccheri solidi, liquidi, il latte, la panna, le uova, e durante il processo di gelatura anche aria, quindi in realtà è una schiuma. E consideriamo che è anche un prodotto che viene mantenuto a una temperatura molto negativa, meno 14, meno 15, mentre viene consumato a una temperatura molto positiva. Quindi soprattutto d'estate. Sì, 35-40 gradi. Quindi ha una complessità in sé intrinseca, perché viene creato per vivere a temperatura negativa, ma viene consumato a temperatura molto positiva. Quindi sicuramente una parte del gelato subisce una ricerca tecnologica molto avanzata. Dire chimica lo troverei forzato, perché la maggior parte di questi ingredienti, dai tutti, sono ingredienti tratti dalla natura, naturali, quindi anche gli stabilizzanti stessi, ma che servono per controllare questa sua instabilità intrinseca e dare piacere alla persona di riuscire a mangiare un cono tempo necessario. Certo, noi diciamo chimica appunto per legarli insieme, questi chimica elementi. Chimica della natura. Certo. Sono processi, certo. E da cosa è composto? Insomma, io immagino ovviamente gli ingredienti puri, che possono essere il cioccolato, il latte, la panna, lo zucchero, come diceva lei, ma c'è tutta una componente invece che lo rende così soffice e così bello anche alla vista. Il gelato per il 90-95% è composto da tutti questi ingredienti che lei ha citato. Il latte in un gelato al fior di latte è circa il 70%, poi c'è un 20% di panna, quindi già arriviamo al 90% solamente tra latte, panna e zucchero. Poi ci sono le uova, ci sono vari altri ingredienti che tutti conoscono, come i gusti, il cioccolato, il pistacchio e via di seguito. Poi c'è una parte che può andare dall'1 al 4-5% di componenti che possono essere fibre vegetali come la carruba, il guar, che si occupano di legare parte del ghiaccio prima che questo geli all'interno delle macchine, o anche in alcuni casi degli emulsionanti che servono appunto per legare i grassi con i liquidi. Il gelato ha una certa fase di grassi e una certa fase di liquidi che devono essere legati assieme per dare proprio quella cremosità tipica che il gelato artigianale ha. Ed è in questa componente che voi state lavorando per migliorare la qualità, per rendere eccellente la base di questo gelato? Sì, ci sono due campi di ricerca fondamentalmente nel campo del gelato artigianale che vanno nella direzione della qualità. Uno è sicuramente nella direzione di una qualità assoluta, quindi ad andare a cercare dei gusti di gelato che sono le eccellenze italiane, per esempio il pistacchio di Bronte DOP, la nocciola delle Langhi GP, questi prodotti che sono tipicamente italiani, che devono subire ovviamente delle lavorazioni di preparazione, quindi la creazione di questi prodotti in una pasta, in una pastella che possa essere poi solubilizzata nel gelato, partendo da delle eccellenze molto alte, danno anche forti sicurezze microbiologiche perché vengono controllati, vengono selezionati e tutto. Poi c'è tutta una ricerca invece nel campo, possiamo dire, della reologia del gelato artigianale, quindi come i fluidi si comportano dentro la vaschetta, diciamo, la spattolabilità, la cremosità che diceva prima, che è orientata oggi, negli ultimi 10 anni, nella diminuzione al massimo degli additivi all'interno del gelato, additivi che possono di nuovo essere carruba e guar, quindi sono prodotti naturali, per rendere il gelato sempre più semplice come composizione pur vivendo nella sua complessità. Quindi al posto degli emulsionanti, per esempio, si possono usare delle panne concentrate molto ricche, per esempio in fosfolipidi, che sono gli emulsionanti naturali del latte, che all'interno del gelato danno sia la cremosità della panna ma anche un effetto emulsionante. Stessa cosa le uova e via di seguito. Bisogna fare delle selezioni su quello che la natura dà, insomma. Ecco, ma Fabrizio Osti, tutto questo, se non sbaglio, va nella direzione di migliorare quella che è la produzione del gelato artigianale, che è alquanto diffusa e che deve distinguersi il più possibile, non solo nelle grandi gelaterie che abbiamo in tante città, insomma, che però sono poche, deve distinguersi dal gelato industriale, insomma, quello che si tira fuori, il cliente si tira fuori dai frigoriferi, no? Il problema credo che sia questo. Beh, sicuramente il competitor principale della gelateria artigianale è il gelato industriale, soprattutto per quanto riguarda il consumo casalingo. Infatti non nego che uno dei campi di ricerca, per esempio nel gelato artigianale, è quello di migliorare la fruibilità del gelato una volta arrivata a casa, cioè lo stecco che può essere artigianale, magari unico nel suo gusto, ma preso direttamente dal freezer e mangiato, no? Il gelato artigianale ha sempre vissuto un po' l'asporto, diciamo, il consumo casalingo. Oggi molta della ricerca è orientata in quella direzione lì, per competere con l'ice cream industriale all'interno dei freezer casalinghi. Sicuramente la ricerca dell'unicità del prodotto, quindi del fatto che ogni gelateria sia unica, irripetibile, che abbia le sue caratteristiche peculiari, la sua scelta di gusti e di combinazioni, questa è la più forte discriminante che c'è col gelato industriale, certo, che è sicuramente più massificato, e certo, le catene anche più o meno artigianali di gelato. Insomma, ma voi cosa state pensando di fornire alle quante sono le gelaterie artigianali d'Italia? Si parla di 35.000. Che, se non sbaglio, è la somma di tutte quelle che ci sono in Europa, eh? Una roba del genere. Beh, a spanne sì, parleremo di 60.000 unità in Europa. Consideri che poi quando parliamo di gelaterie parliamo di circa 8-10.000 gelaterie pure, che è una realtà tipicamente italiana, tipicamente. Vuol dire che sono quelle che non vendono neanche il caffè, insomma, certo. E il resto sono gelaterie, pasticcerie, bar, certo. Esatto, con gelato quindi artigianale dentro. Ecco, ma voi volete aumentare la qualità in quelle, perché lì non ce la fanno a fare un lavoro di qualità oltre una certa misura, no? E quindi cos'è che gli fornite? Il gelatiere artigiano è uno chef professionista, no? Che come tutti gli artigiani lavora dei prodotti che possono partire da prodotti puri, da prodotti semilavorati. L'orafo stesso, il diamante non se lo crea, se lo compra, poi lo installa su una struttura, e la sua maestria è quella di saper fare un capolavoro alla fine, no? Stessa cosa dell'artigiano, compra dei prodotti puri e in parte dei prodotti semilavorati. Un prodotto semilavorato può essere il pistacchio di Bronte Drop, che vuol dire che viene acquistato dalle aziende che comprano a Bronte il pistacchio, lo controllano da tutti i punti di vista, anche quello microbiologico, il rischio di aflatossine, il rischio di contaminanti, eccetera, lo lavorano in impianti a regola d'arte e creano delle paste, si chiamano, delle pastelle, quindi non è più un pistacchio in grani, ma diventa una specie di pistacchio liquido, che è 100% pistacchio di Bronte, ma è stato lavorato in modo da poter essere poi utilizzato all'interno di un gelato, quindi viene tostato, raffinato, in modo che sì, poi infatti, possa infatti, essere una roba a cui non avevo pensato prima di preparare questa intervista e che lei giustamente mi ricordava, è che appunto questa schiuma deve mantenere questi equilibri, cioè il gelato deve essere bravo ad essere buono sempre, cioè deve essere buono quando lo consumiamo lì per lì in gelateria, ma deve essere buono anche quando noi lo portiamo a casa, lo mettiamo in freezer, lo tiriamo fuori per i nostri ospiti, e lì ci sono una serie di temperature a cui il gelato viene sottoposto, alle quali io sinceramente non avevo mai pensato, però lui deve essere bravo a rispondere a questi cambi di temperatura ed essere sempre buono e perfetto. Sì, è la cosa fondamentale del gelato, che deve essere la sua fruibilità, cioè la fruibilità di prodotto. Un gelato deve essere artigianale, stiamo dicendo, deve essere buono consumato nel punto vendita, ma deve essere anche buono consumato a casa, per esempio sotto forma di torta di gelato. Quando noi diciamo buono, come ricercatori in questo campo, non possiamo solamente dire buono come gusto, devo anche poter dire che il cliente prende la torta da un freezer a meno 20, ma quella torta deve essere immediatamente tagliabile, porzionabile, certo, e messa sul piatto, e soprattutto deve avere un tempo di scioglimento comunque lungo, tale da poter assicurare un tempo di consumo ragionevole e piacevole. Certo, praticabile, certo. Esatto, allora noi come ricerca dove lavoriamo? Lavoriamo con proteine del latte che hanno un forte effetto legante, vuol dire che vanno a bere acqua nel gelato fino a 20 volte il loro peso, quindi vuol dire che quell'acqua che sarà legata da queste proteine del latte non potrà diventare ghiaccio perché sta facendo qualcos'altro, quindi diventerà una specie di crema, e quindi a temperature molto negative, anche quelle dei freezer casalinghi, il gelato non sarà così duro ma sarà porzionabile e mangiabile. Più, non essendo ghiaccio, quel gelato tenderà a sciogliersi anche più lentamente perché c'è meno ghiaccio da sciogliere. La prima fase che si scioglie in un gelato, industriale o artigianale che sia, è l'acqua. Se quest'acqua viene legata tecnicamente da delle fibre, da delle proteine, ed è qui dove si fa la ricerca sulla riologia del gelato, certo, il comportamento del gelato è molto diverso. Diciamo che il gelato è un prodotto che in realtà nel 95% dei suoi ingredienti non è cambiato negli ultimi 100 anni. Nel 5% degli ingredienti sicuramente sta subendo, ecco, una ricerca molto forte. E infatti a questo proposito, in conclusione, volevo chiederle, gelatinosole. È questo che noi percepiamo, che c'è una tendenza a avere adesso un gelato più sano e magari un po' meno bellino, piuttosto che negli scorsi anni in cui avevamo questi colori meravigliosi, colori, questi soffici gelati belli alla vista, ma magari meno buoni. Ora invece c'è più uno sguardo alla qualità e anche, ecco, c'è più attenzione anche nel consumatore. Diciamo che l'edonismo degli anni 80 si è perso un po' in tanti settori, compreso in quello alimentare, quindi è vero che anni fa, quando parliamo degli anni 80, 1980, 1990, la ricerca del gelato era comunque su colori vivi, brillanti, quindi con un uso abbastanza cospicuo di coloranti che fossero naturali o artificiali. Questo trend è assolutamente finito con gli anni 2000, quindi quei pistacchi verde smeraldo. Ecco, infatti glielo stavo dicendo, invece il pistacchio deve essere marroncino. Il pistacchio può essere marroncino nel caso che sia tostato con la sua pellicina, è verdino nel caso che venga tostato senza la pellicina. Quindi però un verdino smorto, non un bel verde pisello come vedevamo negli anni. Fluorescente, è un verde vagamente militare. Se un pistacchio è verde fluorescente vuol dire che è colorato, se è un pistacchio di bronte è un peccato veniale andarlo a colorare. Va bene, grazie mille Osti, davvero un piacere aver parlato di questo bell'argomento. Grazie, buon lavoro. Tu lo sapevi c'era il pistacchio di bronte? Sì, certo. Ah, è uno dei miei gusti preferiti. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Oh, noi li abbiamo introdotti come sex toys, però insomma nella nostra trasmissione di scienza, Chiara, vogliamo affrontare questo tema con tutta la serietà anche di chi fa un'analisi tecnologica, no, di questa strumentazione, perché è possibile farla, è molto interessante anche. Assolutamente farla. Sì, nel senso che gli ascoltatori lo sanno, le nostre notizie sono sempre piuttosto rigorose, hanno sempre un certo carattere scientifico e così sarà anche oggi. Sì, e qui ce n'è tanta di scienza. Tra l'altro è un tema che viene fuori mica a caso, cioè in questi giorni c'è il Festival della Scienza di Roma, insomma se ne è parlato anche sui giornali, tema diciamo principe è la felicità e all'interno di questo tema c'è tutta una macro area in cui ci sono mostre, incontri dedicati alla scienza del piacere, quindi della felicità fisica anche. Oh, abbiamo ospiti per parlare di questo, Davide Coero Borga, buonasera Davide. Buonasera, buonasera agli ascoltatori di Mebius. Ci diamo del tu perché insomma lavori nella comunicazione scientifica, poi sei arrivato spesso anche nella nostra trasmissione. Poi Maria Letizia Festa Giordani, buonasera Maria Letizia. Buonasera a tutti. Ecco, lei Maria Letizia ha una impresa che lavora in questo settore, lei l'ha definito dell'erotismo di lusso? Sì, diciamo è proprio il lusso dell'erotismo come momento che regaliamo noi stessi nell'ambito del piacere. Si chiama Angélique de Ville e entrambi sono ideatori insomma di questo appuntamento spazio romano. Allora direi magari iniziamo raccontando che cosa c'è in mostra e poi veniamo invece all'aspetto più forse legato alla tecnologia e anche alle scienze del piacere. Maria Letizia, direi iniziamo con lei. Abbiamo fatto una selezione di oggetti per l'esposizione in modo da coprire un po' tutte le possibili destinazioni d'uso. Cominciamo dal primo. Un oggetto che si vede in esposizione è un anello vibrante, un cock ring. Quindi è un oggetto che indossa l'uomo nel momento in cui gioca con la donna e fornisce una superficie vibrante, quindi aggiuntiva all'uomo come stimolazione per la donna. Ne esistono anche in farmacia monouso. La differenza di quelli che proponete voi, la differenza qui è tecnologica, è che questi hanno una garanzia vita, come dire. Assolutamente sì, sono tutti prodotti garantiti e prima di tutto sono importanti i materiali. Infatti si parla sempre di silicone medicale, che è estremamente ipoallergenico e non tossico. In più questi prodotti hanno non la batteria interna, non le classiche pile, ma un caricabatteria esterno come per i cellulari, quindi è possibile ricaricarli continuamente e hanno comunque sì una garanzia di 10 anni. Su questi aspetti arriveremo dopo. Poi c'è un dildo che si distingue dai vibromassaggiatori in quanto non ha le vibrazioni. Questo in particolare Lella ha un design che permette di utilizzarlo da entrambi i lati, per cui c'è una forma con una punta più affusolata e l'altra invece che ha l'inclinazione tradizionale per andare a stimolare il punto G. Qui è interessante l'aspetto del design, cioè questi sono oggetti che hanno dietro uno studio importante sia dal punto di vista anatomico ma anche dal punto di vista ingegneristico. Assolutamente, infatti sono studiati da una parte sull'anatomia femminile e dall'altra c'è un'attenzione forte all'estetica dell'oggetto, perché sono comunque bellissimi da maneggiare e da vedere, anche da guardare. Non devono dare la sensazione di essere degli strumenti troppo tecnici o addirittura di tipo terapeutico, devono avere una loro piacevolezza nell'usarli, anche nei colori per esempio. Infatti, certo. Abbiamo anche clienti che espongono a volte nelle vetrinette in casa alcuni oggetti proprio per la loro bellezza come oggetti di design. C'è stata anche una mostra, se non erro, completamente dedicata a questi oggetti pitturati, dipinti e rivestiti con materiali, una mostra proprio ad hoc, se non erro. Ce n'è stata anche una famosa che è partita da un pool di designer francesi che hanno interpretato i vari sex toys con materiali però atipici, ecco, rispetto a quelli tradizionali usati. Va bene, Maria Letizia, andiamo avanti. Poi abbiamo quello che è il classico vibromassaggiatore, classico intendo più tradizionale come forma, imita un po' più la realtà, che è appunto l'Elise, un oggetto sempre estremamente elegante perché ha la linea affusolata, però già si avvicina di più, diciamo, alla realtà, è quello che più cerca di soddisfare un certo gioco più tradizionale. No, qui leggo nella scheda tecnica che ci avete mandato che ha addirittura due motori. Esatto, infatti la cosa interessante è che è possibile variare la velocità ed avere anche delle modalità di vibrazione un po' randomiche. Ah, non troppo regolari, un po'... Esatto. Creative. Quindi si alternano e diciamo che anche il discorso sorpresa è comunque importante, ha un ruolo importante, certo, nel gioco. Un pezzo forte della collezione invece è questo ovetto, che adesso appunto Maria Letizia le chiederei di spiegare, perché ha dentro invece tantissima veramente tecnologia. Sì, c'è l'ovetto con il telecomando. Diciamo che questo oggetto, al di là delle sue funzioni prettamente tecniche e quindi del tipo di stimolazione che può dare alla donna, ha una funzione specifica nel gioco mentale che si crea all'interno della coppia. Ecco, perché nasce un po' come idea dal gioco di Milo Manara, il famoso fumetto erotico. Quindi la donna indossa l'ovetto, lo inserisce e l'uomo ha il telecomando. Quindi questo tipo di tecnologia permette di utilizzare il gioco anche in pubblico, se si va al ristorante o a una festa, e l'uomo a sorpresa può decidere di attivare l'ovetto. Ah, quindi una cosa molto raffinata e sofisticata. Funzionalità. Cioè addirittura mi sembra che il raggio di azione sia di 30 metri, quindi... Sì, sì, è stato sperimentato anche a più di 30 metri, quindi l'importante è che non ci siano delle pareti tra, chiaramente divisorie tra l'ovetto e il telecomando, però nello stesso ambiente funziona molto a distanza. Grandissimo effetto sorpresa. Io direi adesso di dare la parola anche a Davide, che appunto è invece il pensatore più per la parte che appunto riguarda la scienza. Sì, perché dietro questi moderni oggetti del piacere c'è in verità la stessa tecnologia, l'attenzione direi medicale che chiediamo a una protesi estetica oppure a una protesi chirurgica, una protesi per incidente oppure addirittura al nostro iPad o al nostro iPhone, perché d'altra parte cosa te ne puoi fare di un vibratore se non lo puoi attaccare al tuo cellulare? E allora ovviamente questi oggetti riescono anche a vibrare collegati a dei numeri di telefono, riescono a modulare la frequenza sonora della canzone che stai ascoltando con il tuo lettore MP3, vanno a utilizzare dei materiali che tradizionalmente appartengono alla camera di chirurgia, e quindi appunto il silicone medicale, l'ABS, il titanio chirurgico, sono dei materiali estremamente atossici, anallergici, perché poi entra anche ovviamente in questione il contatto con le mucose, le allergie di ciascuna persona, e quindi ho bisogno di creare degli oggetti il più possibile atossici, il più possibile delicati, perché entrano in contatto con delle parti così sensibili del corpo. E quindi, Davide, qui andiamo a fare una distinzione invece con tutta una produzione che c'è su internet, appare a volte a valanga, di oggetti che invece sono molto più grezzi e molto diversi da questi. Sì, questo prevede anche uno studio importante per le case costruttrici che c'è alle spalle. Sì, una delle case più grandi, che è svedese, la Lilo, è stata fondata da tre designer e ingegneri che si sono chiesti: ma perché dentro un sexy shop ci devono essere degli oggetti così brutti e avvilenti per un designer? Allora si sono messi a ridisegnare questi oggetti. Alcuni, per esempio il dildo di cui parlava prima Maria Letizia, l'attenzione spasmodica ai dettagli di design e di ingegneria è un'attenzione che ovviamente poi risponde anche a una maggiore performance del prodotto, che perché mai come in questi casi è questione di millimetri ed è questione di centimetri, quindi bisogna farci bene attenzione. Allora, dopo aver disegnato il prodotto, dopo aver fatto un prodotto test, viene allargato a un pubblico di riferimento, che è fatto di migliaia di persone che sono in contatto con l'azienda e che compilano della modulistica e rimandano indietro i loro pareri e i loro giudizi attenti su questi oggetti. Partendo da questa evaluation pubblica, poi dopo l'azienda ridisegna, il team ridisegna l'oggetto, va a definirlo ulteriormente per poi consegnare un prodotto perfettamente funzionante. C'è un aspetto interessante, questo tipo di strumenti, oltre al piacere, come abbiamo detto, fisico, possono essere utili anche da un punto di vista terapeutico, cioè in alcuni casi possono essere utilizzati per l'allenamento di muscoli, ad esempio i muscoli pelvici, nel momento in cui c'è un prolasso o un problema magari post parto o dovuto a delle patologie particolari, no? Non è così, Davide? Esattamente così, è un'evoluzione tecnologica delle vecchie sfere delle geishe, oggi si chiamano sfere di Kegel, perché appunto riproducono dei movimenti di ginnastica che i ginecologi prescrivono alle partorienti per rinsaldare e ritonificare le parti interne muscolari. Quindi la donna può indossare queste sfere prima di fare sport, e ci sono di diversi pesi ovviamente, per poi proprio come in palestra, per poi continuare ad allenarsi e andare a correre, fare jogging, andare in palestra. Durante i movimenti sportivi le sfere aiutano anche i muscoli interni a continuare a muoversi e a rientrare dal prolasso, e quindi curare questo tipo di disfunzione. Va bene, io sono sicura che qualche ascoltatore curioso vorrà vedere magari qualche immagine. Davide, tu mandaci immagini della mostra e noi lunedì le pubblichiamo sul sito www.moebiusonline.eu. Grazie Maria Letizia, grazie Davide e buon festival. Grazie a voi. E buona giornata. Ciao a tutti. Federico, ti faccio sentire una cosa. Va bene. Cos'è che è? Questo è l'urlo del pavone, e anzi, diciamo l'urletto del pavone, perché lo emette proprio giusto prima di accoppiarsi, lo emettono i maschi del pavone. Prima di accoppiarsi, quindi non è nemmeno un gridolino, insomma, di piacere. No, infatti è in quella fase tra il corteggiamento e, insomma, sì, hai capito. Okay. Quando il pavone è la pavona. Come si dice, pavona? Sì. Ecco, non si sapeva quale fosse la funzione inizialmente, e l'hanno svelato un gruppo di ricercatori della Duke University. Insomma, questo gridolino servirebbe ad attirare le altre femmine, le ragazze, sì. Sì, per dimostrar loro che appunto il maschio è molto efficiente e funziona bene nel corteggiamento. Funziona. Allora, funziona perché loro l'hanno provato, cioè hanno fatto sentire ad un gruppo di femmine lo stesso gridolino registrato, e le femmine sono accorse. Tombola. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Vi ricordate i titoli in apertura? Uno di questi, l'ultimo, era proprio dedicato all'uso, all'utilizzo delle sanguisughe in chirurgia. E per parlare di questo, per quanto vi possa sembrare strano, ho qui un chirurgo, Aldo Gianni. Buonasera Gianni. Buonasera a lei. Lei dove opera? Dunque io dirigo il reparto di chirurgia maxillofacciale presso il Policlinico di Milano, Fondazione Cagranda. Mi lasci dire che la sua professione nell'ambito della chirurgia in generale, della medicina, il chirurgo maxillofacciale, è una professione per la quale insomma io ho sempre una forte sorpresa, perché avete una responsabilità micidiale. Voi agite su una parte del corpo che è il viso, il volto, fondamentale per qualunque tipo di relazione, ed è sempre sorprendente pensare che sappiate prendervi questo tipo di responsabilità. Non deve essere facile, no? No, sicuramente nell'ambito delle chirurgie è probabilmente quella che immediatamente evidenzia il lavoro del chirurgo, perché viene fatta su una zona visibile come la faccia, che è la carta d'identità di ciascuno di noi. Certo. Poi in più, per quanto riguarda la chirurgia maxillofacciale, diciamo che all'inizio si pensava potesse occuparsi esclusivamente di problematiche coinvolgenti la bocca o il cavo orale, mentre ormai negli ultimi 20 anni direi che è una disciplina che si occupa a tutto tondo delle patologie del viso, sia della parte scheletrica sia della parte dei tessuti molli, traumatologia, tumori, malformazioni, eccetera. Purtroppo ci sono molte opportunità per dover intervenire in quest'area del corpo. Allora, se c'è una cosa che appartiene all'immaginario di noi tutti da tanti film di avventure, dai grandi film che si facevano negli anni 60 con tutte le spedizioni in Africa, i cacciatori bianchi che salvavano inesperti europei che si recavano laggiù, e una componente fondamentale era appunto le sanguisughe che appena si attraversava una laguna aggredivano i viaggiatori, ma ancora oggi assolutamente nei film appare sempre questo animaletto tremendamente fastidioso che bisogna togliere immediatamente. Può essere assolutamente sorprendente il fatto invece che voi riusciate a utilizzarlo dal punto di vista chirurgico, quindi dal punto di vista terapeutico. Da dove iniziamo? Allora, io farei una brevissima premessa perché altrimenti non comprendiamo poi l'utilizzo che viene fatto. Certo. Direi che nella nostra professione, soprattutto per motivi legati all'oncologia, cioè a tumori che coinvolgono aree del viso, del cavo orale, della fossa nasale, eccetera, c'è la necessità purtroppo di dover fare degli interventi demolitivi. Ma proprio perché stiamo parlando di faccia, è evidente che è ugualmente importante effettuare, e quasi sempre fortunatamente lo è, contestualmente alla demolizione, una ricostruzione della parte asportata per motivi sia morfologici, estetici, ma anche evidentemente funzionali. Già. E il gold standard della ricostruzione al nostro distretto è praticamente quella che viene eseguita con dei veri e propri autotrapianti. Cosa vuol dire? Vuol dire la trasposizione di uno o più tessuti dello stesso paziente da una sede anche molto lontana, ma non prelevando il tessuto punto e basta, prelevando questo tessuto unitamente almeno a un'arteria e ad una vena, che vengono temporaneamente interrotte in modo da poter staccare completamente questo tessuto, e questo tessuto viene poi messo al posto di quello asportato previa una modellazione particolare, eccetera, eccetera, e vengono fatte delle suture microchirurgiche di questa arteria e di questa vena sui vasi arteriosi e venosi della sede che riceve, quindi normalmente i vasi del collo. Senta, qui io non sono sicuro di aver capito bene. L'arteria però temporaneamente la bloccate durante l'intervento, mi pare capire, però poi dopo ritorna ad essere funzionale, quindi la mettete in funzione in un'altra zona del corpo, che è quella del viso. Esatto, è un trapianto, quindi viene ovviamente staccata temporaneamente, dopodiché viene fatta una sutura e viene tolta la clip che manteneva chiuso il vaso per controllare che il sangue possa, anche attraverso questa sutura, andare a irrorare il tessuto che abbiamo. Quindi siamo con un paziente che è lì in ospedale, assistito e curato, insomma, da vicino, insomma, siamo in una situazione molto particolare. e diciamo che questo deve essere fatto ovviamente contestualmente all'intervento demolitivo, anche perché il tempo di ischemia, cioè il tempo in cui il tessuto non è irrorato, deve non superare normalmente le 2 ore, quindi entro 2 ore deve essere staccato da una sede e messo in condizione di essere rivascolarizzato nella nuova sede. Ho capito, va bene. Ecco. E qualche volta può capitare che magari la vena, non per vari motivi, non è più in grado di fare al 100% il suo lavoro. Perché? Perché magari a livello della sutura microchirurgica si sono formati dei microtrombi, per cui c'è più difficoltà da parte di quel tessuto a far refluire il sangue. E allora, in termini tecnici, cosa viene stabilito? Che questo tessuto va in stasi venosa, cioè cosa vuol dire? Il sangue arriva ma fa molta fatica a defluire. È chiaro che se l'ostruzione è completa va portato in sala operatoria e va rifatto tutto il lavoro, dal punto è chiaro. Se invece è una cosa parziale, per aiutare la vena che non riesce più a fare al 100% il suo lavoro, ancora oggi, ripeto, in una percentuale limitata di casi, possono essere usate gli animaletti che prima nell'immaginario collettivo erano tremende, che sono le sanguisughe, che sono a tutti gli effetti ancora oggi un presidio medico-sanitario, tanto è vero che ci sono dei servizi che le forniscono entro poche ore, perché è chiaro che bisogna essere anche tempestivi. E questi animaletti devono essere posizionati uno o due per volta a seconda della estensione del tessuto, e sono in grado praticamente di, come delle piccole ventose, di attaccarsi dove c'è una aumentata concentrazione di sangue venoso che non defluisce, e quindi si ingrossano fino a diciamo ottenere l'effetto voluto, e quindi aiutare a contrastare la stasi venosa, cioè asportare l'eccesso di sangue. Naturalmente voi dovete cambiarle, no? In continuazione ogni X minuti, anche perché a un certo punto si staccano da solo, quando tra virgolette hanno mangiato e sono sazie, così ci intendiamo, non agiscono più, certo, da solo, quindi devono essere ovviamente sempre sotto controllo, vengono staccate. Ecco, ma senta Gianni, noi abbiamo ormai ben presente qual è la strumentazione che si usa nelle sale chirurgiche, che è veramente densa, insomma, di apparecchiature e di sofisticazione. Le chiedo, ma non esistono allora, in questi casi che lei mi ha accennato, non esistono dei sistemi di controllo dell'eccesso di sangue più efficienti di questi animaletti? No, non è che non esistono, le dico, o la vena è completamente ostruita, allora non c'è. E va bene, certo. È chiaro, dobbiamo fare. Oppure, se è una situazione borderline, prima di riportare il paziente in sala operatoria, siccome è un qualcosa che si vede dal punto di vista macroscopico, un tentativo che può essere fatto è l'utilizzo di questi mezzi, perché altrimenti non ci sono altre alternative se non rifare la struttura venosa in sala operatoria, certo, o addirittura asportare la ricostruzione fatta e farne un'altra, con un costo biologico evidentemente molto importante. Cioè l'efficienza delle sanguisughe è superiore ad altra strumentazione che potreste utilizzare? Sì, in casi molto selezionati. Aldo Gianni, credo che lei ci abbia raccontato tutto di questa tecnica. Grazie e auguri per il suo lavoro difficile. Grazie a lei dell'ospitalità. La saluto, buonasera. Sentite che storia strana adesso vi racconta Alberto Agliotti. Il tema è la Casa Bianca e la Morte Nera. Ascoltate. Una gigantesca astronave da battaglia, un'enorme sfera scura, grande quanto una luna e dotata di una micidiale arma di distruzione di massa, un cannone laser in grado di far esplodere un intero pianeta. La Morte Nera, l'ammiraglia della flotta dell'Impero Galattico, l'Impero dei Cattivi in Guerre Stellari. Ebbene, un gruppo di cittadini statunitensi ha chiesto all'amministrazione Obama di costruirla. Eh sì, We the People è un sito del governo statunitense che raccoglie le proposte dei cittadini sotto forma di petizioni. Chiunque può presentare una propria richiesta, oppure navigare tra quelle degli altri e firmare quelle che condivide. La Casa Bianca si impegna a rispondere a tutte le petizioni che raggiungono un certo numero di firme, che fino a qualche tempo fa era 25.000. Ebbene, qualche tempo fa qualcuno ha proposto una petizione per la costruzione della Morte Nera. formulata con tutti i crismi. Si chiede al governo di assicurare risorse e finanziamenti per iniziare la costruzione di una morte nera entro il 2016. Attraverso la realizzazione di un sistema di difesa come una morte nera, il governo può stimolare la crescita di posti di lavoro nel settore delle costruzioni, dell'ingegneria e dell'esplorazione spaziale e non di meno migliorare la difesa nazionale. La petizione ha raccolto oltre 35.000 firme e la Casa Bianca ha risposto. Ha risposto dando parere negativo e motivando la risposta. Sentite cosa ha detto Paul Shawcross, responsabile spazio e scienza del White House Office of Management and Budget. L'amministrazione condivide il desiderio di creare posti di lavoro e garantire la difesa della nazione, ma la costruzione di una morte nera non è nei piani. Ecco alcune ragioni. Si stima che il costo sarebbe superiore a 850 miliardi di miliardi di dollari. Stiamo lavorando per ridurre il deficit, non per aumentarlo. L'amministrazione non sostiene e non finanzia l'esplosione dei pianeti. Perché dovremmo spendere così tanti soldi dei contribuenti per una macchina con un difetto fondamentale che può essere sfruttato da un'astronave monoposto? Tuttavia, guardate bene e vedrete che già qualcosa attraversa il cielo. Non è la Luna, è una stazione spaziale. Sì, abbiamo già una gigantesca stazione spaziale, grande quanto un campo di calcio, in orbita attorno alla Terra, che ci aiuta a capire come gli uomini possono vivere a lungo nello spazio. A bordo in questo momento ci sono 6 astronauti, statunitensi, russi e canadesi, che stanno facendo ricerca, imparando come si vive e si lavora nello spazio per lunghi periodi. Accolgono regolarmente le visite di altre astronavi, riparano oggetti, eccetera. Abbiamo anche 2 laboratori robotici, uno dei quali brandisce un laser, che si muovono sulla superficie di Marte, cercando di capire se c'è mai stata vita sul pianeta rosso. Stiamo scoprendo centinaia di nuovi pianeti in altri sistemi stellari e costruendo un successore del telescopio spaziale Hubble molto più potente, che ci permetterà di vedere la luce dei primi giorni dell'universo. Non abbiamo una morte nera, ma abbiamo assistenti robotici volanti sulla stazione spaziale, un'agenzia per i progetti di ricerca avanzata sulla difesa, che sta costruendo un braccio artificiale come quello di Luke Skywalker, droidi volanti e robot quadrupedi. Viviamo nel futuro, approfittatene. O meglio ancora, aiutate a costruirlo. Se sceglierete una carriera in scienze, tecnologia, ingegneria o matematica, la forza sarà con noi. Ricordate, il potere che ha la morte nera di distruggere un pianeta o magari un intero sistema stellare è insignificante rispetto al potere della forza. Ma non è finita. A breve giro dal comunicato della Casa Bianca è arrivata la risposta dall'Impero Galattico. La schiacciante supremazia militare dell'Impero Galattico è stata confermata ancora una volta dal recente annuncio del Presidente degli Stati Uniti di non voler costruire una morte nera, nonostante la bellicosa richiesta degli abitanti di questo piccolo ma aggressivo pianeta. È fuori di dubbio che un'arma così pericolosa nelle mani di un mondo così primitivo potrebbe minare la pace dei cittadini dell'Impero Galattico. I rappresentanti della nazione leader di questo pianeta, dal nome così banale, si rifiutano di riconoscere la codardia della loro scelta e preferiscono addurre motivazioni economiche. Ma i costi che riportano sono altamente sovrastimati. Dobbiamo comunque tenere presente che questo minuscolo pianeta non ha i nostri grandiosi mezzi di produzione. Si invitano infine i membri ribelli del Senato Galattico a non credere alle esagerazioni terrestri sui punti deboli della nostra stazione. Qualsiasi attacco alla morte nera non può avere successo. Puntata eccezionalmente varia. Spero vi sia piaciuta. Noi vi aspettiamo qui fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.